Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, posta ordinaria, raccomandate, ma anche bollettini, assegni, banco posta. Il nuovo anno ha visto anche molti aumenti sul fronte dei servizi postali. Per scrivere una lettera non si spendono più 60 centesimi, ma 70, e rincari importanti sono stati applicati anche su molte altre tariffe. Se presi singolarmente possono sembrare irrisori, ma come molti dei rincari di cui stiamo parlando in questi giorni, anzi da molti mesi, non si possono non considerare alla luce del contesto di crisi e di aumenti generalizzati che proprio in particolar modo dall'inizio di quest'anno hanno colpito tutti gli italiani. Poi, per la verità, qualcuno è anche abbastanza salato, perché solo il canone di banco posta, sentite qua che sberla, passa da 30,99 € l'anno a 48 € in un colpo solo. Oggi a Salva Danaio facciamo il punto su questi aumenti, vi chiediamo come influiscono nel vostro bilancio, pensiamo anche a chi per lavoro nelle piccole imprese fa un uso massiccio dei servizi postali, e devo dirvi la verità che, a parte le denunce delle associazioni dei consumatori, noi abbiamo deciso di fare questa puntata proprio in virtù del fatto che alcuni ascoltatori ci stavano scrivendo e ci hanno proprio segnalato appunto questi aumenti, quanto questi stiano incidendo sulla loro attività. E devo dire che questo è un tema che, per la verità, è stato un po' anche bypassato dalla stampa, forse ancora non ce ne siamo accorti tutti quanti di questi aumenti che stanno arrivando. Allora, noi oggi vediamo appunto quali misure sta attivando Poste Italiane, anche per venire incontro invece a quelle che sono state chiaramente le denunce di difficoltà da parte delle fasce più deboli, e ci chiederemo anche se in corrispondenza di questi rincari ci sono stati adeguati miglioramenti e garanzie nella qualità del servizio effettuato, perché se poi a fronte di un aumento abbiamo anche un miglioramento delle prestazioni, allora magari, come dire, li sosteniamo un po' più volentieri. In caso contrario, se tutto rimane uguale, qua allora ci sono un po' indigeste. Tra l'altro, indigesti questi aumenti. Tra l'altro, proprio citando appunto le associazioni dei consumatori, come vi dicevo poco fa, alcune sono talmente agguerrite che addirittura hanno deciso che faranno ricorso contro questi aumenti, e quindi vale la pena appunto raccontare anche questi aspetti. Altre novità che non ho citato nella prima rosa di aumenti appunto indicati, ci sono anche delle novità, dicevo, per quello che riguarda per esempio le procedure per i prelievi dal libretto postale. Anche questa un'altra notizia della quale si parla poco, ma nei confronti della quale invece si sono imbattuti molti pensionati, per esempio. Allora, tante cose delle quali parlare. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349-238-6666, ci potete scrivere l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, potete andare come sempre ad animare il dibattito che vi vede molto protagonisti su Facebook, il nostro indirizzo è salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter @salvadanaio24. Allora, vi devo anche raccontare in diretta che in questo momento entrambi gli ospiti che abbiamo concordato per la trasmissione, entrambi non stanno rispondendo al telefono, per cui mi dovete aiutare voi, vi chiedo appunto il massimo sostegno, raccontatemi quello che sta succedendo agli uffici postali, appunto con quale tipo di aumento vi siete imbattuti, vi era stato comunicato, perché anche qui c'è anche un po' da mettere in discussione le modalità di comunicazione di queste novità, soprattutto quando si tratta di variazioni delle condizioni contrattuali per qualunque tipo di servizio, soprattutto per quello bancario. In genere una banca deve comunicare preventivamente con un certo lasso di tempo quando deve applicare delle condizioni peggiorative. Poste Italiane ha lo stesso tipo appunto di obbligo. Cercheremo di saperlo, appunto, di comunicarlo, di capirlo questa mattina. Ci sono delle novità al telefono? Ancora nessuna? Molto bene, mi fa piacere. Allora direi che intanto un paio di minuti di tempo li possiamo dedicare alla borsa. Allora, la borsa questa mattina ha un atteggiamento contrastato in Europa, contrastato perché abbiamo il segno meno a Londra e a Francoforte, -0,20 e -0,25% rispettivamente. Abbiamo Parigi in rialzo invece dello 0,41%, che abbiamo avuto una buona trimestrale, quello del colosso della grande distribuzione Carrefour, che sta sostenendo tutta la piazza, il titolo guadagna 6,5 punti e naturalmente condiziona positivamente l'intero listino. Una circostanza simile avviene a Milano, FTSE +0,48%, dove a trainare è soprattutto il Biscione, media 7+7 e 71%. Il gruppo ha avuto un giudizio positivo da parte degli analisti di Credit Suisse, che hanno migliorato appunto la loro indicazione sul titolo del Biscione. È stato alzato il giudizio ad outperform, cioè farà meglio del mercato, da underperform, che farà al di sotto del mercato. Il target di prezzo è stato migliorato a 2,65 euro da 2 euro precedenti. Oggi il titolo tratta a 1,88 euro. Bene anche Fiat, più 3 punti, UbiBanca più 1,82%, Mediobanca più 1,62%, Ansaldo più 1,28%, e poi tutte le banche vanno bene, anche la Popolare di Milano più 1,28%, Popolare dell'Emilia Romagna più 1,18%. Qua che cosa succede? Anche per le banche è arrivato un giudizio positivo. Lo ha espresso un'altra banca, una banca tedesca, Deutsche Bank, che appunto ha migliorato la sua indicazione su gran parte dei titoli del settore bancario a Piazza Affari. Fra questi c'è Monte dei Paschi, Intesa, Unicredit. È stato rivisto in meglio anche il giudizio di Generali, anzi no, in peggio, perché il titolo era hold, cioè mantenere, era buy, adesso è diventato hold. In calo chi abbiamo invece a Milano? Enel, meno 1,19%, abbiamo Diasorin, meno 0,8, Tenaris meno 0,7%. Rapporto euro-dollaro a 1,3359, lo spread fra BTP e Bund sotto i 260 punti base. La Spagna oggi ha collocato sul mercato 4 miliardi e mezzo di euro di titoli di Stato con scadenze differenti, a scadenza 2015-2018, pensate che ha collocato anche un titolo a 28 anni, scadenza 2041. Per tutte queste scadenze i tassi sono in calo, quindi anche in Spagna con grande difficoltà e lentezza, però forse il mercato obbligazionario si va pian piano normalizzando, e questo peraltro nella giornata in cui abbiamo appreso che anche il Portogallo presto potrebbe tornare, come è successo con l'Irlanda un paio di settimane fa, ad operare sul mercato dei capitali già nei prossimi giorni con un'emissione di titoli a 5 anni. Ecco la borsa di oggi. Noi invece andiamo al tema previsto per questa mattina. Come vi abbiamo già preannunciato, è arrivata una raffica di aumenti anche da Poste Italiane. Sentiamo. E quando ti scriverò sotto fatto bollo, quanti baci d'amore tu ci troverai. Scrivere una lettera resterà sempre un gesto romantico e affascinante. Con l'anno nuovo, però, è diventato un po' più costoso. Dal 1 gennaio 2013, infatti, il prezzo del francobollo è passato da 60 a 70 centesimi. Ed è solo uno degli aumenti approvati alla fine dell'anno scorso in una delibera dell'Agicom. Rincariche di certo non hanno fatto piacere agli utenti che fanno un uso frequente dei servizi di Poste Italiane. Per l'invio di posta prioritaria tra i 20 e i 50 grammi si passa da 1,40 euro a 1,90 euro. E ci sono aumenti dal 30% in su anche per tutti i formati più pesanti. La tariffa standard per una raccomandata lievita di 30 centesimi, da 3,30 euro a 3,60 euro, con ulteriori aumenti anche nelle altre fasce di peso. Per le raccomandate cresce di 10 centesimi anche l'avviso di ricevimento, anche in questo caso da 60 a 70. Crescono anche le tariffe per l'invio degli atti giudiziari e per le corrispondenze all'estero. Spedire una lettera in Europa o nel bacino del Mediterraneo costa ora come minimo 85 centesimi, contro i 75 del 2012. Tutto questo senza dimenticare che a luglio 2012 il pagamento tramite bollettini postali è salito da 1,10 euro a 1,30 euro e che da gennaio 2013 il canone annuo del BancoPosta è passato da 30,99 a 48 euro, con un rincaro del 58,08%. Inoltre, il costo degli assegni, prima gratuiti, diventa di 3 euro per un carnet da 10. Eccoci qua allora, 800 24 00 24, il numero verde per raccontarci le vostre esperienze in questo senso. Vi è capitato negli ultimi giorni di dover ricorrere ad un servizio postale di qualunque tipo? E insomma, mi pare di capire che in ogni caso il raggio d'azione degli aumenti sia abbastanza trasversale, riguarda un po' tutto, dai servizi postali, le raccomandate, i bollettini e poi il carnet degli assegni, come avete sentito, fino al BancoPosta. Allora, Romolo Giacani, uno dei nostri ospiti di questa mattina, non vi ho presentato prima perché non vi trovavamo e quindi vi devo bacchettare entrambi, poi però a parte gli scherzi, buongiorno, è responsabile di Poste Italiane dei rapporti con le associazioni dei consumatori. Giacani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. E poi saluto anche l'avvocato Roberto Barbieri, legale del Movimento Consumatori. Avvocato, buongiorno, benvenuto anche a lei, ad entrambi chiaramente, buon anno. Buongiorno, grazie, auguri. Allora, tanti gli ascoltatori che già ci stanno scrivendo, naturalmente un po' indispettiti per queste novità. Giacani, in primo luogo, adesso, a parte andare tra qualche istante a riesaminare quelle che sono voce per voce, appunto, quelli che sono voce per voce gli aumenti che sono stati decisi appunto dall'inizio dell'anno, quali sono gli obblighi di comunicazione che Poste Italiane ha quando arrivano novità di questo tipo? Non lo deve sapere nessuno che, come dire, il francobollo da applicare ad una lettera di posta ordinaria aumenterà da un mese all'altro, in questo caso appunto dalla fine del 2012 all'inizio dell'anno, ma ancora meglio per il caso per esempio dell'aumento del canone di BancoPosta. I clienti sono informati, appunto Poste Italiane non deve comportarsi almeno in questo ambito esattamente come una banca? Allora, facciamo un po' di chiarezza perché chiaramente sono tematiche differenti. Per quanto riguarda le tariffe postali, ovviamente non è un provvedimento di Poste Italiane, trattandosi di prodotti universali e quindi regolati dall'autorità, è l'autorità che fissa la tariffa, rispettando chiaramente tutta la normativa del diritto postale e quindi in base anche a dei criteri di verifica della qualità e quindi infatti diciamo il provvedimento che ha portato a questi aumenti è stato fatto dall'Agicom. Noi chiaramente dobbiamo informare la clientela e lo facciamo attraverso gli uffici postali, attraverso il sito internet. Per quanto riguarda invece il BancoPosta, ovviamente... Quando è arrivata questa delibera dell'AGCOM che ha appunto determinato questi aumenti, Giacani, tanto per capire? La delibera è stata approvata alla fine dell'anno scorso, alla fine di dicembre, intorno al 20 dicembre. Quindi un pochino abbiamo il sapore del blitz, adesso capisco che non è colpa sua, però qua dovremmo magari evidenziarlo ad AGCOM. Detto questo, poi magari indagheremo anche su queste modalità un po' a mo' di decreto legge sulle cose. Comunque, detto questo, e voi chiaramente avete dovuto applicare questi rincari. Diciamo, quindi lato clientela, chiaramente una volta che Agicom ha fatto il decreto che è andato in gazzetta, noi ci siamo attivati per fare la comunicazione. Noi abbiamo delle relazioni stabili, istituzionalizzate con le associazioni dei consumatori, quindi in qualche modo abbiamo un obbligo di informazione preventiva verso le associazioni che abbiamo chiaramente tempestivamente informato del provvedimento e ovviamente in questo caso poi non è che c'è stata una contrattazione, anche perché il provvedimento appunto non era nostro ma dell'autorità. Immediatamente esecutivo. Giacani, detto questo, allora a prescindere dalle modalità sulle quali ci sarebbe molto da discutere, accantoniamole per un attimo. Basta però all'occhio la mole, l'entità, la portata di questi aumenti, che per ogni singola voce non è indifferente. L'aumento minimo, il pagamento tramite bollettini postali, sale da 1,10 a 1,30 euro, più 18%. Il canone annuo di BancoPosta, che è notevole, da 30,99 euro a 48, più 58%. Gli assegni, prima il carnet era gratuito, adesso secco 3 euro l'utilizzo appunto di un carnet di assegni. Anche sempre la Agicom che stabilisce anche l'ammontare, la portata degli aumenti, e no, chi glielo dice? Assolutamente, questa è tutta un'altra tematica, ovviamente, perché il discorso, diciamo, legato al BancoPosta non è vincolato dall'Agicom, ma è un discorso di decisione aziendale. Però anche qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché è vero, il bollettino BancoPosta è passato l'estate scorsa da 1,10 a 1,30. Sì, infatti questo è arrivato di aumento a luglio 2012, vero? Esatto, a luglio. Però ecco, su quella manovra lì mi piace sottolineare che invece lì c'è stato un canale di consultazione e anche quasi di contrattazione, direi, con le associazioni dei consumatori, perché mentre abbiamo fatto questo aumento abbiamo diminuito contestualmente il prezzo del bollettino per alcune categorie, ovvero per tutti gli over 70 e per i possessori di social card, che quindi pagheranno pagano il bollettino postale 70 centesimi, 50 centesimi in meno della norma. Abbiamo mantenuto a un euro il pagamento attraverso i canali informatici e anche attraverso tutti i canali postamat, quindi se uno paga allo sportello automatico paga solamente un euro. Quindi ecco, diciamo, è stata una manovra più complessiva. Il discorso invece del conto BancoPosta, anche qui vorrei fare una precisazione. Dal 1 gennaio il canone costa 48 euro, ma precedentemente il canone per il BancoPosta era 30,99 euro più 10 euro per la carta postamat, che è praticamente la carta di pagamento che è essenziale. Infatti noi abbiamo 6 milioni di conti postamat, di conti BancoPosta e 6 milioni e mezzo di carte postamat. Allora dunque adesso i 48 euro sono omnicomprensivi o sono 48 più 10? Sono assolutamente omnicomprensivi. Quindi diciamo che l'aumento è da da 41 a 48. Ecco. Ma c'è da dire un'altra cosa. Prima era sufficiente accreditare lo stipendio o la pensione, domiciliare una bolletta e noi toglievamo le 10 euro della postamat. Adesso se il cliente domicilia lo stipendio o la pensione, accredita delle operazioni di appoggio di qualsiasi operazione appunto sul conto BancoPosta, ecco che vantaggio si azzera completamente tutti i 48 gli euro. Benissimo, quindi grazie per averci aiutato. In realtà è insomma un aumento però... Che va un po' edulcorato, però certo che da 41 a 48 è pur sempre 7 euro in più l'anno, sono 70-84 euro l'anno in più, molto meno dell'aumento appunto che abbiamo indicato all'inizio, però è sempre una bella cifretta. Adesso ci fermiamo perché abbiamo già la prima pausa, ma forse magari riesco a sentire, prima di interpellare il legale dell'Associazione dei Consumatori, l'avvocato Barbieri, perché poi gli chiederò anche un commento su iniziative che vogliono prendere associazioni, altre associazioni dei consumatori che addirittura si riservano di impugnare al TAR del Lazio questi aumenti che ritengono ingiustificati perché varati alla vigilia di Natale, quindi molte hanno incaricato addirittura i propri penalisti di predisporre questo esposto denuncia alle procure della Repubblica. Vorrei sentire un ascoltatore che è il signor Battista, che è l'ascoltatore che ci ha scritto e dal quale poi abbiamo tra gli altri tratto spunto appunto proprio per organizzare questa trasmissione. Battista, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, io sono titolare di un'impresa commerciale di Verona. Parlando di aumenti è successa una cosa molto strana e allora ho saputo dal Sole 24 Ore di questo aumento della posta prioritaria. Mi sono trovato la settimana che va all'Epifania che dovevo spedire oltre 500 inviti ai miei clienti che li invitavo nella mia sede per presentarle le novità di Carnevale, San Valentino e la festa del papà. Bene. Vado dal mio ufficio postale abituale e in modo spiritoso quando chiedo 500 francobolli da 0,70, questo mi dice... Lei sarà un cliente adoratissimo in quell'ufficio postale, Battista. Ma c'ho il conto corrente della posta dico la verità, uso pochino adesso. Ma a me ero preoccupato di spedire questi 500 inviti per la mia clientela. Mi dice, guarda, non abbiamo né l'integrazione 0,10, no. Perché da 0,60 passano a 0,70. Esatto, no? Non se ne parla. Allora dico, ma come faccio? Io ho il 20, se io non mando via gli inviti, cosa è? Allora dice, guardi, l'appoggiamo a Posta Impresa di Verona. Allora era il venerdì, al lunedì vado a Posta Impresa, mi presento là con la richiesta di 500 francobolli da 0,70 e questo dice, ma scherza? Ho detto, ma signori mi hanno mandato i vostri colleghi di là. Esatto, intanto alzo la voce e viene fuori un dirigente. In conclusione dice, Cailotto, sì, capiamo il problema. Io dice, dovete risolvermelo questo problema. Allora l'impiegato dice, guarda che io non timbro, perché lì l'unica soluzione era che dovevano prendermi questi 583 lettere e timbrarmeli con il valore di 0,70. Allora dice, lo faccio io. La sorpresa è stata quando ho dovuto pagare. Non ho dovuto pagare 0,70, ma mi hanno chiesto 0,75 per il lavoro manuale. Allora, Io sono un commerciante, sono titolare di un'azienda da 38 anni. Ho detto, andiamo avanti così che l'Italia ci aiuta. Grazie Battista, grazie molto per la sua testimonianza, per la sua mail. Adesso chiederemo anche a ragione appunto al dottor Giacani sulle motivazioni per cui parte questa delibera. La GCOM decreta, emette una decisione in questi termini così dirompenti. Di fatto le Poste, poi io questo lo posso anche capire, non sono nelle condizioni di ottemperare immediatamente a queste indicazioni, e chi ne paga le conseguenze è sempre il cittadino. Eccoci ritrovati in diretta a Salvadanaio. Oggi parliamo della sgradita sorpresa che molti di noi hanno avuto dall'inizio dell'anno, della quale per la verità erano anche poco consapevoli perché non se ne è parlato moltissimo. Sono arrivati molti aumenti per numerosi servizi appunto resi da Poste Italiane. Aumentano i francobolli, sono aumentati appunto i costi dei bollettini. Questo è successo per la verità lo scorso estate. L'utilizzo di un carnet di assegni da gratuito è diventato a pagamento a 3 euro. L'aumento dei servizi del conto BancoPoste. Allora, molte le testimonianze al nostro microfono 800 24 00 24. Abbiamo sentito il caso di Battista, l'ascoltatore, l'imprenditore che prima di Natale doveva inviare 583 o 6 lettere. Morale, si è recato all'ufficio postale e non solo non c'erano i nuovi tagli di francobollo appunto, ma non ha trovato non è successo prima di Natale, è successo all'inizio dell'anno, non ha trovato naturalmente i bolli disponibili con il nuovo prezzo, con la nuova tariffa, e non trovava neanche l'integrazione. L'hanno inviato a Posta Impresa, dove per dover timbrare manualmente questo ufficio appunto ha chiesto non 0,70, non 70 centesimi come da tariffario, ma 75 centesimi. Chiedo un giudizio su tutto quello che abbiamo sentito fino a questo momento all'avvocato Roberto Barbieri, legale del Movimento Consumatori, che conosce bene il mondo delle Poste. Avvocato, molti vostri colleghi di altre associazioni dei consumatori sono pronti ad impugnare al TAR del Lazio questi aumenti che ritengono ingiustificati. Voi che ne pensate? Ma non è il nostro caso, non so se questa sia la strada giusta per contrastare questo tipo di aumenti tariffari. Vorrei fare un ragionamento partendo dalla questione della GCOM. Per come l'ha posta il dottor Giacani, sembra che Poste sia abbia un soggetto, subito questa decisione, che ecco, un soggetto ci volevo arrivare, che, infatti. Che subisce una decisione dall'alto presa attraverso una variabile indipendente. Vorrei ricordare che Poste Italiane è sì un soggetto formalmente privato perché è costituito in SPA, ma le azioni di questa SPA sono detenute al 100% dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. Quindi chi ha chiesto questi aumenti? Faccio fatica che la GCOM ad immaginare ha autorizzato. Che la GCOM di sua iniziativa individui e determini rispetto al servizio universale degli aumenti di tariffe e la loro entità. Tra l'altro sul servizio universale, cioè la consegna della corrispondenza e dei pacchi ordinari per intenderci, il servizio universale impegna Poste Italiane fino al 2016. Poi è prevista una proroga possibile fino al 2026. Questo servizio ha ovviamente un costo che non è coperto interamente dalle tariffe, ma è ripartito fra gli utenti che pagano le tariffe postali, il Ministero e un fondo di compensazione a cui partecipano anche i concorrenti di Poste Italiane. Ora, sarebbe interessante capire se l'aumento che è stato deciso e nella misura in cui è stato deciso ha a che fare con il consentire al Ministero di ridurre l'impegno statale sui costi complessivi del servizio universale caricandolo sugli utenti. Questo sarebbe un aspetto interessante da indagare. L'altra considerazione è che mentre le tariffe BancoPosta dipendono da una decisione aziendale e sono forse quelle più gravose da un punto di vista in termini assoluti di entità degli importi, per il servizio universale, per i servizi postali in termini assoluti parliamo di cifre molto più contenute, ma quello che colpisce è la percentuale di aumento che arriva in alcuni casi al 40% e oltre, a fronte di un'inflazione che sommando gli ultimi 10 anni sostanzialmente dall'entrata in vigore dell'euro si attesta attorno al 24%, quindi non credo si possa nemmeno parlare di adeguamento all'andamento dell'inflazione. No, poi mi viene anche da ridere che comunque parte, adesso con tutto rispetto a Romolo Giacani, che tra l'altro conosco anche molto bene e credo che appunto bypasserà anche sul sorriso che faccio rispetto alle cose che stiamo dicendo questa mattina, mi anche perplime un po' la questione del attivare degli aumenti con le modalità che diciamo discutibili eccetera, ma accantoniamo per un attimo questo aspetto, ma il fatto che comunque uno poi va alla posta e non trova i bolli con la tariffa giusta, non trova l'integrazione e poi di fatto non può fare l'operazione che deve fare, compromettendo molto di, non è che si tratta qua di tutti i cittadini che devono mandare delle lettere d'amore al proprio fidanzato qualora tra l'altro si utilizzi la vecchia modalità, perché adesso si scrivono delle mail anche in questo senso, ma addirittura che un titolare di un'impresa commerciale come l'ascoltatore che ci ha chiamato prima debba essere messo nelle condizioni di non lavorare perché viene sballottato da un ufficio ad un altro, questo mi sembra anche, come dire, poco serio, poco professionale, no? Poi possono esserci dei disservizi anche a Poste Italiane, come capita nelle banche, a volte sono capitati, li hanno risolti anche abbastanza rapidamente. Questa però mi sembra una situazione un po' paradossale. Metto insieme ancora un paio di ascoltatori, poi ritorno da Romolo Giacani naturalmente per farlo replicare rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora. Sergio da Monza, buongiorno, ha pagato una bella multa lei, eh? Sì, buongiorno. Buongiorno. Purtroppo, sì. Purtroppo a novembre ho preso una multa, allora mi sono recato oggi stamattina all'ufficio postale di Avigliana a Torino, io abito a Brianza, faccio camionista, e ho pagato il bollettino a sorpresa 1,79 euro, lei diceva 1,50 euro, 1,30 euro, io ho pagato 1,79 euro. Ah, chissà perché bollettino. Questo bollettino, questo, ma per pagare le multe hanno l'applicazione di una tariffa diversa. Giacani, vengo da lei, adesso non so se lei conosce a menadito tutte le tipologie appunto di bollettino legate a determinati servizi. Per pagare la multa c'era una tariffa diversa? Sì, allora per pagare la multa. Adesso magari la troviamo al volo adesso. Dalla fine. Sì, allora, per pagare la multa di solito gli enti che erogano queste sanzioni utilizzano il cosiddetto MAP, che non è proprio uguale al bollettino postale. Sicuramente il cliente troverà questa scritta MAP sul bollettino, che comporta praticamente una caratteristica di addebito differente e che costa di più. Chiaramente noi trasferiamo esclusivamente questo costo al cliente, ma non è che ci aggiungiamo nulla. Ma il MAV in banca in genere è gratuito, nel senso che noi lo utilizziamo per esempio per pagare le spese di condominio. Io lo faccio online il pagamento, molti miei colleghi di condominio. Può essere pagato anche in altri canali, non solamente alle poste. Il costo comunque è quello lì. C'ha una maggiorazione. Penso un po', io pensavo che neanche si pagasse. Ho capito, quindi in questo caso appunto per chi dovesse pagare con bollettino postale la multa sappia che l'aumento è anche superiore rispetto a quelli che abbiamo detto prima. Andiamo a Luigi della provincia di Monza e Brianza. Luigi. Ma sono stato senza dubbio anticipato prima dall'imprenditore, facevo sempre riferimento alla difficoltà di trovare la pezzatura giusta. Infieriamo bolli. Luigi, non c'è problema. Nel senso che si sono allungate le già lunghe file all'ufficio postale, perché logicamente uno non trovando la pezzatura nei vari negozi dove si poteva trovare tabacchi e così via, andando all'ufficio postale, dopo lunghe attese si riusciva ad avere questo adesivo che sostituiva il bollo, ecco. Però questo creava delle grosse problematiche di attesa. E tanto questo è un aspetto che ci sta segnalando anche un numero nutrito di ascoltatori su Twitter. Gian Pietro ci scrive: se avete bolli da 60 provate a cercare quelli da 10 ad integrazione, misteriosamente introvabili, né francobolli integrativi né francobolli sui valori nuovi. A Treviso ci segnala Paolo da Facebook. E quando ti scriverò sotto francobollo. Ma sì, va, alleggeriamo un po' questo clima di tensione di questa mattina con Poste Italiane, con questa simpatica canzone di Rita Pavone. Romolo Giacani, torno da lei. Allora, non si trovano da nessuna parte, né i bolli nuovi né le integrazioni da 10 centesimi. Come mai state provvedendo? Che succede? Allora, sì, ovviamente ci scusiamo con la clientela per questi disagi, che sono effettivamente determinati da questa tempistica che abbiamo ricordato dei provvedimenti. Noi abbiamo chiesto al poligrafico di stampare velocemente questi nuovi tagli, stanno provvedendo e ci hanno detto insomma che in tempi ragionevoli dovremmo averli in tutti gli uffici e in tutti i tabaccai. Mm. Riguardo a quel discorso che faceva il cliente di Verona, noi abbiamo un servizio a francatura che costa appunto 5 centesimi a pezzo e quindi gli hanno applicato semplicemente quel tipo di servizio in più che consiste appunto in una francatura manuale dei pezzi. Ovviamente in questo momento in cui non ci sono i francobolli forse dovevano spiegare bene e magari cercare di venire incontro a questo cliente, però insomma non è che è stata un arbitrio dell'ufficio. No, ecco, esatto, però ecco, esiste, la comunicazione è fondamentale per quello che è possibile fare. Guardi, l'hanno mandata qua. Sì. Certo, va bene, però insomma non è tanto consolatorio. Volevo leggere una mail perché c'è un ascoltatore che ci scrive: vorrei menzionare che anche il nuovo bollo sui libretti di risparmio per minori, fino a ieri completamente gratuiti ed esentasse, dal 1 gennaio si pagano 34 euro all'anno per depositi oltre 5.000 euro. Avvocato Barbieri, questo costo però è nell'ordine della famosa mini patrimoniale applicata ai prodotti di investimento che è entrata in vigore da poco? Ritengo di sì, questo fa parte delle manovre più in generale dello Stato. Vorrei riagganciarmi, se possibile, certo, al discorso che si faceva anche legato agli interventi che ci sono stati da parte degli ascoltatori, che evidenziano il fatto che questi aumenti di cui stiamo parlando non sono in alcun modo collegati o non possono essere posti in relazione con un miglioramento della qualità del servizio. Ci sarei arrivata. E questo effettivamente è l'esigenza primaria, cioè è accettabile l'aumento di 10 centesimi o di 30 centesimi su un servizio se su quello si provvede ad un miglioramento, laddove purtroppo il fatto del diffuso malcontento del cittadino nei confronti del servizio allo sportello di Poste Italiane è quasi proverbiale, al punto al punto che si rinuncia addirittura, se ne parla come una battuta, ma poi si rinuncia ai reclami che non portano vantaggi pratici. E questo ha a che fare probabilmente anche con un'impostazione prevalentemente burocratica ereditata dal passato piuttosto che da un'attenzione che un'associazione e che una società commerciale dovrebbe avere rivolta prevalentemente alla soddisfazione del cliente. Voglio dire, mancano i bolli, viene fatta pagare 5 centesimi la timbratura, c'è l'allungamento delle file. Infatti, a causa del non aver provveduto a una funzione essenziale, quella di mettere a disposizione i bolli, insomma. Certo. Poi intanto che arrivano i bolli, quantomeno si poteva mantenere una situazione, non lo so, di morbidità, non so come dire, insomma, in un mese magari per quelli che hanno queste esigenze cerchiamo di fare una condizione, non so come avrebbe potuto essere gestita, avvocato Barbieri, una condizione di questo tipo, perché comunque la gente ha avuto bisogno di continuare a mandare. Ma credo che avrebbe dovuto essere prevenuta una situazione di questo genere con la flessibilità e la preveggenza che sono richieste ad un operatore commerciale. E qualche volta anche un po' di buonsenso ci vorrei mettere. Ancora un paio di testimonianze e poi andiamo in chiusura con Romolo Giacani. Allora, chi c'era? C'era Giuseppe da Roma. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti loro. Senta, io forse ho capito male prima le dichiarazioni del responsabile delle poste, in quanto diceva che coloro che hanno l'accredito dello stipendio sul conto Banco Posta e l'addebito delle principali bollette vedranno da quest'anno azzerarsi le tariffe delle interessi e competenze, il canone diciamo anno. Io ho entrambe le cose, cioè l'accredito dello stipendio e l'addebito delle principali bollette utenze. In data 7 gennaio 2013, però in valuta 31/12/2012, mi sono visto addebitare i soliti 30,99 euro che mi vengono addebitati da anni ormai e poi immagino che ci saranno i prossimi 10 errotti a cui si alludeva prima. Sì, andiamo quindi a 40. Mi domando, forse le informazioni devono essere come dire, integrate da altri parametri, oppure questo azzeramento della del canone annuale. Esatto, forse per parte altri dall'anno clienti. Prossimo, in quanto la valuta a me risulta ancora nel 2012, quindi il 31-12-2012, certo, come valuta. Forse abbiamo capito, integrare. Adesso Giuseppe chiediamo a Giacani, gli metto insieme ancora un paio di ascoltatori e poi lo lascio concludere. Giuseppe da Siracusa, che aspettava da un po', poi è caduto. Giuseppe. Sì, buongiorno. Sì, allora? Complimenti per la trasmissione intanto. Grazie Giuseppe, la bella Sicilia. Sento un po', io ho due carte di BancoPosta, no? Per cui ho sentito che lei diceva poc'anzi che le carte BancoPosta hanno avuto un aumento da 30 euro rotti a 48. Il conto BancoPosta, lei ha la carta evidentemente che costava come erogazione della posta 10 euro l'anno, no? Non so se lei... Sì. Quindi? Allora non c'entra questo discorso. No, sì, c'entra. Vabbè, adesso riepiloghiamo tutto, Giuseppe. Abbia un attimo di pazienza. Vediamo rapidamente l'ultimo che voglio sentire, Vincenzo da Udine. Buongiorno, sono Vincenzo da Udine. Scusate se mi impappino, non sono abituato. Innanzitutto volevo sottoscrivere totalmente quello che ha detto non l'ultimissimo ascoltatore, quello prima, quello che parlava dell'abbattimento presunto dei costi del conto in BancoPosta qualora si avesse l'addebito dello stipendio. E ecco, per me vale la stessa identica cosa che ha detto lui e infatti mi ha anticipato su una domanda, quindi mi collego a lui. La seconda cosa che volevo dire era più che altro un piccolo esempio di quello che mi è capitato. Io sono stato lunedì a pagare l'affitto, come faccio sempre, e da 4-5 anni non ce l'ho in debito automatico, perché avendo pochissimo denaro preferisco vedere Vincenzo, bene. Vincenzo, ognuno fa le sue scelte, ci mancherebbe altro. Lei è già bravo che intanto non va a pagare in contanti, che traccia il suo pagamento, per cui già fa quello che deve fare nei confronti dello Stato, non si preoccupi. Quindi secondo le sue necessità, certo. Scusi. No, dicevo solamente, mi sono accorto, sono stato lì che praticamente prima ho sempre pagato 2,5 euro di commissione sul bonifico, nonostante io abbia il conto e tutto in posta, adesso sono diventati 3,5. Bene, un euro secco. Salito di un euro, allora l'ho anche fatto notare alla signorina, ho detto che non mi era arrivato nessun avviso, niente di niente. Mi hanno detto che è cambiato il contratto, che non hanno la possibilità neanche di mandarmi via mail l'informativa del contratto, perché sennò noi delle poste non mandiamo via mail. E mi ha detto che se voglio posso andare sul sito e vedere. E pagare. Vincenzo, devo lasciarla perché ho 1,5 minuto di tempo. Giacani credo che abbia bisogno di tutto questo tempo un po' per rispondere alle domande che abbiamo sentito. Allora, da quale vogliamo cominciare? Dall'ascoltatore di Siracusa? Allora il tema è l'abbattimento del canone di gestione di BancoPosta se si accreditano determinate addebitano determinate operazioni, parte da quest'anno? Allora, chiaramente, come sottolineava il cliente, a fine anno con valuta dell'ultimo giorno dell'anno gli vengono accreditate le spese, quindi se lui quest'anno avrà quei comportamenti, diciamo, che abbiamo detto, cioè la domiciliazione l'accredito. In questo caso, non avevo finito il discorso, comunque tutte le informazioni ovviamente sono presenti sia nei fogli informativi, sia negli uffici postali, sia nel sito, si capisce molto più chiaramente di quanto possiamo fare chiaramente così velocemente per radio, però in quel caso, diciamo, si deve anche avere una nuova scelta da parte del cliente rispetto a un servizio o un prodotto BancoPosta. Ovvero per esempio il pagamento di una polizza assicurativa. Ah vabbè, e allora qua Giacani, allora mi devo un po' arrabbiare perché l'informazione che ha dato all'inizio era un'altra. Io adesso non la interrompo per maleducazione, la interrompo perché sto chiudendo la trasmissione, fra 20 secondi Filippo mi sfuma, però se lei ci dice che per chi ha il conto BancoPosta e accredita le operazioni fa l'addebito delle utenze piuttosto che di altre operazioni il canone è gratuito, poi non mi può venire a dire a fine trasmissione, non riesco ad approfondirlo, che per avere queste condizioni favorevoli bisogna avere anche un prodotto di investimento e quant'altro. E allora qua devo richiamarvi al più presto, Giacani e Barbieri. Intanto grazie per essere stati con noi. Voi continuate intanto a scriverci mentre Salvadanaio, come sentite la sigla sta arrivando e fra un po' mi sfumano, torna domani. Grazie a tutti, buona giornata.